ni šanta u zemlji, flore ste glaja, loreske mplaja, prostona gaja, trokuni snem, mesađe raja, del voste bel korskim retraja, lazerno velka bols matraja, e jaja, entraja, vas postom na veraja, e šaja de plaja, čelosanske mne straja. Ma bella mia, per Dio non sia, che già il geloso de Moldavia, che carvendria sa gelosia, si hai tastosa manspantia, che già gioios mes non seria, ni gioia se vos pronom tendria, dal via faria, con già mes non veiria, se il dia morria, donna proschius per dia. Donna grassida, quel slause in grida, vostra valor che sa venida, e chiuso grida, fa qui valvida, perché osa sor donne servida. Guar per gensor vossa iscia usida, e per me lor de prez compida, blandida, servida, gensesche rexenida, bastida, finida, nengles, ailes, stampida.